Savonarola, il frate che succhiellò Firenze, prose scelte, un programma prodotto da Davide Giorgio per Radio Big World. Savonarola, prose scritte da Pasquale Villari, che assistette all'invenzione del telefono, che impiegò 70 anni a raggiungere 50 milioni di utenti, e lettere a me, che ho assistito all'invenzione di Internet, che per raggiungere i 50 milioni di utenti ci ha messo 4 anni, Facebook 2 anni e mezzo, WhatsApp 15 mesi e Angry Birds 15 giorni. D'altra parte, consiglio veloce, pentimento tardo e comunque a usanza nuova è preferibile non correre. Serio, capitolo 41, lasso nella pratica. Intanto il Savonarola, senza punto sgomentarsi, era di nuovo salito sul Pergamo e fin dal principio di Quaresima aveva incominciato regolarmente le sue prediche. Egli cominciava piuttosto moderato, sperando di procedere oltre senza nuovi ostacoli, ma il Papa era assai cresciuto nel suo furore, minacciava l'interdetto sulla città e la confisca di tutti i beni dei mercatanti fiorentini in Roma. Voleva anche, sotto pena di scomunica, imporre ad ogni stato cristiano di fare lo stesso. Quest'impeto però venne in parte moderato dai più prudenti cardinali, i quali gli fecero considerare come le cose del Savonarola avevano talmente commosso l'animo dell'universale che per tutto si minacciava uno scisma nella Chiesa, come non mancava altro che un ecclesiastico di qualche il quale volesse divenirne capo, e questi poteva facilmente trovarsi nel cardinale di San Piero in Vincola. Tali considerazioni sospesero alquanto la prima volontà del Papa e lo decisero invece di mandare alla Signoria, in data del 26 febbraio, un breve assai minaccioso che diceva: «Avendo noi avuto notizia dei perniciosi errori che spargeva il figlio di iniquità Girolamo Savonarola, gli imponemmo di astenersi affatto dalla predica e venire a noi per fare scuse e ammenda, ma egli non ha punto obbedito. Gli comandammo, sotto pena di scomunica, che unisse la congregazione di San Marco alla nuova congregazione tosco-romana ed egli neppure volle obbedire, incorrendo così ipso facto nella scomunica minacciata. La quale scomunica noi facemmo pronunziare e pubblicare nelle vostre principali chiese, dichiarando che vi incorrevano tutti coloro che o udivano o discorrevano o trattavano col detto frate Girolamo. Ma ora udiamo come egli, con grave danno della religione e delle anime, continua a predicare, dispreciando l'autorità della Santa Sede e dicendo la scomunica non essere valida. E però vi comandiamo, in virtù di santa obbedienza, che, sotto buona custodia, ci mandiate il detto fra Girolamo, il quale, se ritorna a penitenza, verrà da noi paternamente accolto, perché non vogliamo la morte, ma la conversione del peccatore. O almeno separatelo, quale membro corrotto, dal resto del popolo, e tenetelo chiuso e guardato in modo che non possa, parlando con alcuno, seminar nuovi scandali. Ma se ricusate d'obbedire a questi comandi, allora noi, per conservare il decoro e l'autorità della Santa Sede, saremo costretti a ricorrere all'interdetto e ad altri rimedi ancora più efficaci. Un altro breve arrivò nello stesso tempo ai canonici del Duomo ed ordinava che assolutamente vietassero al Savonarola di predicare nella loro chiesa. Infatti, sin dal 2 marzo, terzo giorno di Quaresima, lo troviamo a continuare le sue prediche in San Marco. La nuova signoria per marzo ed aprile gli era intanto risultata quasi tutta contraria. 3 membri soli erano a lui favorevoli, gli altri 6 nemicissimi, fra i quali si trovava il Confaloniere. Questo era cugino di Piero de' Medici ed aveva in origine portato il suo stesso nome, che nella rivoluzione del 94 aveva mutato in quello di Piero Popoleschi. Il sangue che scorreva nelle sue vene però era rimasto sempre pallesco, non s'era unito ai bigi ma si dette invece agli arrabbiati con grandissimo ardore ed era quindi uno dei principali persecutori del Savonarola. Per tutte queste ragioni, subito che i nuovi signori ricevettero il breve papale, pensarono di raccogliere la pratica onde far ricadere sopra di essa la responsabilità di quelle decisioni che volevano prendere e che sapevano assai odiose all'universale. Il giorno 3 di marzo adunque domandavano consiglio sul come provvedere alle cose di Pisa e alla penuria grandissima di denaro e finalmente chiedevano che partito prendere circa al frate dopo il breve venuto da Roma. Questo era veramente lo scopo per cui erano stati radunati. I confalonieri delle compagnie, i buoni uomini ed altri magistrati si tenevano sulle generali, dicevano che bisognava mitigare l'animo del Papa facendogli comprendere come a voler porre le mani sul frate si sarebbe messo la città intera a grandissimo repentaglio. Messer Battista Ridolfi fece però una lunga orazione in nome dei 10 di libertà e pace, già che questi avevano l'obbligo di rispondere più particolarmente a varie domande della signoria. Egli fece un tristissimo quadro delle condizioni in cui versava la Repubblica. Noi abbiamo speso 20.000 ducati e dei 15.000 al mese che ci avete assegnati non si è ricevuto quasi nulla. I nemici crescono ogni giorno, le navi venete stanno alla bocca di Livorno, il caro dei viveri e il disordine dei militi ci impedirebbero di fare qualunque movimento quando ne venisse il bisogno. A Livorno, luogo importantissimo per il grano, per la mercanzia e per le artiglierie, occorrono ripari che non si fanno per la spesa. Volterra, che avrebbe bisogno di guardia, è tutta desolata. Le colline sono abbandonate e al primo moto verrebbero in mano del nemico. Così pure le terre del piano, Pescia e tutta la vallata è esposta ai nemici. Dalla parte di sopra Vagliano, luogo importante assai, connestabili, commissari e fanti, tutti gridano danari. I pisani scorrono già in Maremma e il contagio fa il resto. Desiderano perciò quei miei signori che si provveda in ogni modo, perché ne corre tutta l'importanza dello Stato, e di qualunque cosa potesse occorrere se ne scusano coram Deo. Veniva finalmente il Ridolfi a discorrere del Savonarola e diceva: «Pensano quei miei signori che non sia da disgustarsi col pontefice, ma che pure si guardi all'onore di Dio e della Repubblica, che si debba perciò esaminare e ponderare tutto quello che dice il Papa e vedere se egli si rammarica giustamente o no, se ciò che comanda è vero e bene oppur no. Essi non dubitano punto che nel frate sia buona vita e gran dottrina, né sanno che in Firenze abbia mai partorito male ma sempre bene, e nello spirituale e nel temporale. Onde, se il pontefice viene contro a questa cosa per essere male informato, se gli scriva subito e dichiari tutto, ma se, come essi credono, la faccenda sta altrimenti, allora si provveda solo all'onore della città, perché in vero», concludeva Ridolfi, «le lettere di Milano accertano che il Papa si è mutato ad un tratto ed è divenuto minaccioso contro la Repubblica, e non per le prediche del frate solamente, ma ancora per altre non buone ragioni. Le risposte perciò potrebbero essere facili e brevi. Quei miei signori osservano da ultimo che questo frate è popolarissimo, e rammentano che per la cacciata di Fra Bernardino tutti capitarono male. Le pancate dissero che il breve era assai dispiaciuto e che cacciando il frate da Firenze si poneva la città intera in grave pericolo, ma, volendo dare al Papa un qualche segno d'obbedienza, si poteva impedire al frate di predicare nel Duomo, tanto più che gli s'era, fin dal giorno innanzi, ritirato in San Marco». La signoria dovette cedere ad un parere espresso nella pratica con sì grande maggioranza di voti, e l'indomani, 4 marzo, andarono a Roma, all'oratore, più lettere dei 10 con entro acclusa una dei signori al Papa. In essa dicevano come, sin dall'arrivo dell'ultimo breve, il Savonarola s'era per segno di obbedienza ritirato in San Marco, lodavano la sua dottrina, la vita, le profezie, accusavano i suoi nemici, i quali, così essi dicevano, odiano più la luce che le tenebre e non fanno altro che cercare cause di civili discordie. Concludevano finalmente: «Noi non possiamo obbedire al comando di vostra santità, non solamente perché faremmo cosa indegna verso la nostra Repubblica ed ingiusta verso un uomo che ha sì bene meritato della patria, ma perché anche volendo non potremmo farlo senza popolare discordia e grave pericolo di molti. Tale è tanto il favore che si è conciliato questo frate con la sua integrità. A noi duole grandemente che queste cose abbiano fatto rivolgere da noi l'animo di sua santità, la quale adesso ci toglie quelle speranze che ci aveva già date per il materiale vantaggio della nostra Repubblica. Non pertanto ci manterremo quali sempre fummo, cioè fedeli alla Chiesa e alla fede cattolica, questo però dichiarando che abbiamo a cuore più la nostra Repubblica che gli altrui comodi». Invero non è molto facile comprendere come una signoria così avversa al Savonarola potesse scrivere tanto energicamente in suo favore. Forse questo era il linguaggio diplomatico che essa teneva perché a stretta vita alla pratica, mentre in segreto poteva far consigliare al Papa che pigliasse occasione a rispondere con più violenza. Forse anche i 10, stati sempre amici del frate o il segretario della Repubblica, contribuirono a renderla più benigna. Certo è che la lettera andò in nome della nuova signoria e che il Savonarola continuava tranquillamente le sue prediche in San Marco. La chiesa, non bastando alla moltitudine degli uditori, se ne concedeva l'entrata solo agli uomini. Le donne andarono prima in San Lorenzo e poi, quando i canonici non vollero più concedere l'entrata, a San Niccolò in via del Cocomero per udire le prediche di Fra Domenico da Pescia. Pur tali e tante furono le istanze che fecero presso al Savonarola per udire la sua voce, che egli dovette destinar loro il sabato.